la riduzione degli stipendi o su base individuale o su base di trattativa sindacale generalizzata deve essere un punto fermo, perché non può esistere che in un periodo come questo i calciatori percepiscano il 100% della retribuzione laddove non si allenano e nemmeno giocano le partite ufficiali. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Che non dite che quei schifosi di calciatori non vogliono la riduzione dei loro stipendi quando tutti fanno salti mortali per aiutare? La Juventus si è mossa in anticipo e ha così annunciato di aver raggiunto l'accordo economico con giocatori e allenatore della prima squadra. Di fatto, i loro compensi verranno ridotti per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno. Un accordo che porterà alla società un effetto economico positivo di circa 90 milioni di euro. La Juventus ha sicuramente anticipato i tempi e forse nel senso positivo ha preso un po' in contropiede anche gli altri club e il sistema calcistico in generale, però certamente una soluzione condivisa e uguale per tutti sarebbe per me l'opzione migliore. Tutto quello che sta succedendo intorno, tipo la Juventus che taglia gli stipendi e queste cose qua, io e Giulini l'abbiamo fatto il 3 di marzo prevedendo delle cose e leggendo stamattina il giornale, vedendo che ci sono sul tavolo la Lega, l'associazione calciatori, il ministro dello sport, mi sembrava corretto perlomeno che queste cose venissero pensate un po' prima. Opinioni, avevamo sentito la notizia, qualche opinione di nostri ascoltatori, l'avvocato Grassani, Walter Zenga. D'altra parte, in questo periodo in cui riscriviamo i libri di storia, ci sarà da aggiungere anche questo capitolo. All'autunno caldo aggiungiamo la primavera bollente, soprattutto dal punto di vista sportivo. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao. Marco Beninazzo, Sole 24 Ore. Ciao Marco. Eccomi, ciao ragazzi. Eccolo qua. Allora, scenario, sport fermo, sappiamo, qualcuno ha già detto che quest'anno riaprirà, è stato per primo il rugby, ne abbiamo parlato l'altro giorno, secondo me un po' in anticipo, però questione di sensibilità o di gusti, il club capofila, la Juventus, si accorda con i suoi, no play, no gain, niente stipendi, tra l'altro c'è anche un'altra notizia che poi approfondiremo con Filippo Maria Ricci, perché c'è Messi che ha comunicato che al Barcellona i giocatori si tagliano queste mensilità del 70%, quindi prenderanno solo il 30% per permettere agli altri dipendenti del club, così dice Messi, e non il Barcellona, ma il Barcellona è Messi e fa quello grosso modo che concorda con Messi, per permettere agli altri dipendenti del club di prendere l'intero stipendio. Dunque, gli altri sono ancora lì a sfogliare la margherita, invece, Marco. Abbiamo sentito anche Zenga dire decisioni che devono essere prese prima, no? Probabilmente il momento della decisione è questo. La Juventus va un po' per i fatti suoi, però credo che potrà esserci una decisione comune, condivisa. È opportuna, serve una decisione comune, condivisa? Beh, serve nell'ottica in cui ci sono due parti, c'è un sindacato calciatori che, come ha detto Tommasi, può disegnare la cornice, nel senso che poi gli accordi di rinuncia allo stipendio, a parte dello stipendio, sono comunque accordi individuali in ambito giuslavoristico, e c'è dall'altra parte una Lega che rappresenta tutte le società, ma è evidente che da parte di Andrea Agnelli c'è scarsa fiducia nella capacità della Lega di prendere una decisione unitaria, e come non capirlo d'altro canto. Sì, dargli torto diventa difficile. Ecco, e quindi la Juve ha un'esigenza, quella di dare un segnale alla borsa e dare un segnale all'esterno e di darlo forte e che fosse soprattutto basato su un principio di solidarietà e di crearsi empatia tra sì, poi tra l'altro ci fanno tutti una bella figura che in questo momento conta anche abbastanza visto l'umore dell'opinione pubblica. Assolutamente assolutamente a chi dice che è una manovra di bilancio, sottolinea come sia una manovra di bilancio per sistemare appunto il bilancio che chiude la 30. Allora io su questo andrei molto cauto, la Juve non dà altri commenti oltre alla nota che è uscita. Io diciamo la leggo in questa maniera, cioè che i giocatori sono stati diciamo disponibili a rinunciare alle quattro mensilità, sì. E che evidentemente questo porta a quel taglio di circa il 25% del costo del lavoro di 90 milioni su 360 più o meno che il bilancio della Juve attualmente prospetta. È evidente che se si dovesse tornare a giocare una parte di questi emolumenti in funzione anche della durata della ripresa, che tutti ci auguriamo ma che oggi sembra meno probabile, chiaramente deve essere restituita perché i giocatori a quel punto esercitano la loro prestazione. Ora, se si prospetta invece, come ho letto da più parti e eviterei diciamo maggiore cautela, a una manovra per cui io su questo bilancio taglio formalmente di 4 mensilità e quindi risparmio 90 milioni, però poi c'è già l'accordo per cui 2,5 le paghi l'anno prossimo, bene, se si dice questo si sta accusando la Juve di falso in bilancio. E quindi non mi sembra il caso, né mi sembra che in ambito casa Juve si sia così folle insomma da lanciarsi in questa direzione. Quindi attenzione a parlare di magia scontabile, a meno che non ci siano poi delle prove evidenti. Ovvio, ma sono cose che vanno spiegate, anche perché ogni Pierluigi in questi giorni abbiamo visto che ogni pretesto è quello buono, anche per insomma per fare gli interessi del proprio partito sportivo in questo caso. Sì, però io credo che insomma la notizia dell'altra sera sia una notizia positiva per la Juve, per il calcio italiano. Io credo che ci siano alcuni aspetti che debbano essere, alcune technicalities che debbano essere sicuramente messe a punto, anche perché non credo che abbiano fatto un accordo, abbiamo parlato con 25 giocatori, sicuramente c'è il ruolo di mediazione da questo punto di vista. Io credo che nella Juve il fatto che ci siano delle figure estremamente carismatiche e profondamente diciamo in linea con la società, forse anche dei futuri dirigenti, penso sicuramente a Buffon, in qualche modo penso anche a Chiellini, questo sicuramente aiuta. Appunto le tecnicali secondo me dovranno essere messe a punto, però la notizia c'è ed è una disponibilità a venirsi incontro. Poi se si riprenderà, se non si riprenderà, se alla fine saranno 90 milioni risparmiati o se saranno 65 o 75, questo dipenderà prima di tutto dal virus, è chiaro. Di cominciare a giocare e poi ovviamente anche degli accordi che immagino dovranno essere perfezionati nei dettagli. Però mi sembra una buona notizia per la Juve e in generale per tutti, perché comunque fa precedente, in qualche modo credo che possa. Sì, ma il fatto che faccia anche precedente, adesso vediamo se gli altri seguono questa linea, che dovrebbe essere di buon senso razionale, no? Non si gioca, sì, quindi perché, non si perché gioca, non si paga, non ci sarà chi chiederà i rimborsi dei biglietti, degli abbonamenti, delle TV. E questo va, credo alla fine potrà anche valere per le TV, cioè non ho il prodotto, non pago l'ultima tranche. Questo dovrebbe essere nella logica delle cose, secondo il buon senso. Poi sappiamo che non è esattamente così, no? No, però secondo me, ripeto, è un segnale sicuramente anche mediatico, anche di comunicazione. Quello che raccontavi di Messi mi sembra, no, che vada nella stessa direzione. Io credo che sicuramente i calciatori si possano rendere conto di avere ovviamente anche una pagina pubblica, e i limiti del possibile sono anche la figura. Certo, però Pier, sai, non so se vale anche per te, ma a me in questo periodo dà abbastanza fastidio questa grandinata di demagogia buon mercato, perché è molto trendy in questo momento sparare fango sui calciatori e mi sembra si faccia anche ad alto livello. Cioè io sto abbastanza con la risposta di Dalpino al ministro Spadafora, cioè inutile adesso dire non si fa più allenamento, vieto gli allenamenti fino a fine aprile, magari sì, magari no, chi lo sa, quando si riprenderà non si sa, non sarà il 3 maggio, magari sarà più avanti o magari sarà mai, però in questo momento c'è grande così, sensibilità nei confronti dell'atteggiamento dei calciatori, molto più acuto rispetto a quello che c'è normalmente, che è già elevato, Pier. Ma sì, ma un po' di demagogia strisciante, no, sul ruolo dei calciatori. Basta che non bisogna dimenticarsi mai che i calciatori non sono euro, ma sono anche, è tutta la filiera. Cioè, io credo che in questa radio di Confindustria, insomma, nella quale comunque dei ragionamenti di natura economica, nella quale comunque poi le cose le si dicono, credo, con chiarezza e con assoluta libertà, ma dico, dal punto di vista economico, si fanno valutazioni molto, molto acute, molto corrette, in linea con quello che succede. Qui siamo in una situazione nella quale esiste una filiera, esiste, uh-huh, e lo sottolineiamo, perché è uno dei business che ha un indotto, che porta posti di lavoro. Il calcio non è soltanto lo stipendio di Cristiano Ronaldo, di Lukaku, sì. Il calcio è un meccanismo, il calcio e lo sport sono in tutto il mondo e anche in Italia uno dei principali settori dell'economia. Benignazzo potrà argomentare con sicuramente più dovizia di particolari rispetto a me, e quindi non stiamo parlando di un gruppo di ricchi, no? Non è ricchanza, sì. Non è un gruppo di giovani lampolli felici e contenti, è un settore economico. E per esempio quello che mi dicevi adesso di Barcellona va assolutamente in questa direzione. Poi c'è anche certamente un aspetto mediatico, i calciatori sono sempre sotto i riflettori, su questo non c'è dubbio, quindi i loro comportamenti vengono continuamente analizzati e scandagliati, questo non c'è discussione. Allora, vorrei fare tra poco una domanda di scenario a Marco Berinazzo. Intanto vi dico che secondo i media giapponesi l'Olimpiade di Tokyo è stata già fissata per il 23 luglio 2021 e si concluderà l'8 agosto. Finora sono solo indiscrezioni, non c'è una comunicazione ufficiale, però questa anticipata dei media giapponesi, tendo a dare abbastanza fede a questa notizia. E mercoledì verrà ufficialmente annullato Wimbledon, aspettiamo mercoledì, anche questa è un'indiscrezione, però anche qui tenderei a crederci. Marco, scenario, come te lo immagini lo scenario del dopo disastro? Credo che, lasciami dire due cose. Innanzitutto, l'accordo della Juventus, al di là appunto delle tecnicalità, sarà una pietra miliare, insomma, del calcio che verrà dopo. C'è un calcio che dovrà ridimensionarsi, trovare dei diversi equilibri, e segna uno spartiacque importante tra una fase in cui il calcio di elite è sembrato, anche in questa fase così complicata di emergenza sanitaria, una sorta di torre d'avorio, distanza dai bisogni dei cittadini, con i giocatori che in aereo privato andavano via dai paesi in difficoltà, al di là delle giustificazioni abilitati. E invece un momento in cui il calcio riprende contatto con i tifosi, riprende contatti con la realtà e passa sacrifici come facciamo tutti. E d'altro canto, a proposito di sacrifici, a proposito di filiera, ricordiamoci che ad esempio in Lega Pro, con una media di stipendi che di circa 50.000 lordi all'anno, quindi stipendi da impiegati, almeno si sta attuando e si attuerà nelle prossime settimane la cassa integrazione anche per i calciatori, anche questa è una novità dell'effetto coronavirus. Detto questo, lo scenario appunto è quello anche un po' disegnato dal CIES questa mattina, che ad esempio sul calciomercato, quel luogo dei sogni, no? Dei tifosi e delle squadre, delinea già un possibile deprezzamento dei giocatori di prima fascia, quindi le principali leghe, del 30% rispetto ai prezzi. Ecco, diciamo che la bolla che si è creata dopo Neymar a Paris Saint-Germain, il mercato secondo me verrà un po' a scoppiare. Uno, perché anche le società di primo livello non potranno più permettersi di staccare assegni da 100-150 milioni, due perché diventerà anche difficile eticamente giustificare certi prezzi. Quindi certo, bisognerà rivedere anche questo tipo di come prezzi. Diceva Malagò l'altro giorno, non è che se in questo momento in Italia dice a Cristiano Ronaldo guarda non c'ho più soldi per pagarti alza il telefono e trova un altro ingaggio da un'altra parte, perché sono un po' tutti in stesse condizioni. Ma poi è un destino, secondo me, di tanti settori della vita pubblica. Parlavo l'altro giorno con degli amici, diciamo, immobiliaristi, chiaramente presto per fare delle valutazioni, però laddove ci sono state delle bolle di crescita, di prezzi, di compravendite in determinate zone, insomma, è probabile che le bolle saranno le prime a scoppiare, e il calcio da questo punto di vista non fa eccezione. È abbastanza ovvio, abbastanza indiscutibile, poi dipenderà molto da come riprenderemo, insomma, la parola fondamentale sarà la scienza, perché se la scienza doterà, troverà una cura e ci sarà una pasticca che al primo sintomo riuscirà ad agire, allora che chiaramente cambia tutto e potremo recuperare la nostra normalità. Bisogna però arrivare da qui a là, cioè che ci sarebbe. Però la botta sì, c'è e ci sarà, perché forse insomma si è corso, non voglio dire troppo veloce, ma tanti settori della vita economica sono andati velocissimi in questi anni. Sì. In questo volevo chiedere a Marco un altro settore estremamente importante, chiave, perché non puoi fare questi discorsi senza accennare al versante delle TV. Ora lì che cosa ti immagini possa succedere, Marco? Perché anche lì potrebbe valere il discorso alla Juventina, cioè la TV dice: bene, non t'ho pagato fin qui, ora non giochi e quindi non ti pago, chiedo rimborso. Però i club, molti club, quei soldi li hanno praticamente già spesi. Poi ci sono gli abbonati che giustamente fanno lo stesso discorso: ho pagato l'abbonamento ma non posso vedere partite, quindi ridammi i soldi. Allora è chiaro che il riferimento fatto più volte da Gravina la necessità che nei decreti del governo si riconoscesse lo stato di crisi e la causa di forza maggiore per il calcio è funzionale proprio a depotenziare tutta una serie di controversie. Per quanto riguarda su tutti i fronti, no? della filiera, uso ancora l'espressione mi piace che ho usato Pier, e di questo stiamo parlando, una filiera industriale più che di uno sport. Allora, le TV, Sky e DAZN nel caso specifico, devono ancora al calcio un sesto al primo maggio della quota annuale. I contratti sono blindatissimi, per cui anche se ci fosse questo riferimento alla causa maggiore, comunque devono pagare. Sono circa 230 milioni. In realtà però che succede? Che con questi soggetti tu ti devi rimettere al tavolo tra qualche mese per discutere il triennio successivo, e c'è tutto un anno in cui il contratto è teoricamente blindato, ma se la gente ha meno soldi e quindi non si abbona più, e i soldi che ha a disposizione Sky o DAZN sono di meno. Sky e DAZN avranno tutta, avendo anche soldi in mano, come si deve dire in questi casi, avranno tutta avranno l'esigenza e la possibilità di sedersi al tavolo con la loro controparte Lega e dire: signori, qui c'è una crisi e dobbiamo rivedere per il presente o per il futuro quello che è il monte di ricavi TV della Serie A. E da questo punto di vista, in base a quanto si prolungherà la pandemia e la crisi, evidentemente il tema di una riduzione di questi introiti si pone. Questa stagione è un terzo, quindi sono circa 350 milioni. Detto questo, anzi di più, 380. Detto questo, immagino anche che ci sia, come dire, il buon senso di spalmare un'eventuale riduzione attraverso un risparmio sui monti ingaggi dei calciatori per evitare che ci sia un rosso insopportabile per la Serie A, e il rosso che diventa a cascata anche tutte le altre serie, perché il 10% dei ricavi delle TV va alla Serie B, alla Serie C, ai dilettanti, e quindi in quest'ottica io credo che bisognerà monitorare lo scenario al di là dei contratti e dei cavilli legali, perché immagino fortissime fibrillazioni, anche perché ora, al di là di tutto, l'emergenza sanitaria, finché non sarà chiaro il quadro rispetto a maggio, e ci sarà bisogno di tutto aprile per capirlo, comporterà che la stagione sia veramente a rischio. Sempre che non si possa, come dire, in maniera innovativa, ma qui apro, diciamo, uno scenario che ai presidenti non piace, che è quello delle innovazioni, io sento di Serie A, e quello dei playoff, cioè delle A un certo punto si tratterà, Marco, di valutare qual è il danno minore, cioè sì, essere creativi e non chiudere la stagione. Marco, che comunque dal punto di vista almeno quantitativo delle gare 130 perché sono 13 giornate, per 10 partite sono 130 partite di Serie A da gestire a porte chiuse. Altra cosa sarebbe magari congelare le posizioni in Champions sulla base della classifica, e quindi assegnarli su questa base, e poi magari giocarsi lo scudetto in 7-8 partite secche, magari tra giugno, magari entro giugno, il 30 giugno, per non avere tutto il problema dei contratti. Ma comunque dare un segnale, era segnare semplicemente lo scudetto, per un segnale di ripresa, perché, ripeto, l'idea di arrivare anche a metà luglio, ma comunque con 130 partite da giocare in tutto il territorio italiano, sia pure a porte chiuse, ma che comunque comporta che ci sia un'aggregazione di 100-150 persone negli stadi tra giocatori, staff e giornalisti, di fronte a dati ancora così gravi mi sembra poco plausibile. Sì, non dimentichiamo, ragazzi, io invito anche gli ascoltatori a partecipare a questa discussione che può avere mille rivoli, no? Un altro che mi sta particolarmente a cuore è quello della... Insomma, se ne è parlato per il rugby, se ne sta parlando per il basket, se ne parlerà per tutti gli altri sport. Nel caso non si dovesse più giocare, che facciamo con i titoli? Cioè, assegniamo o non assegniamo? Io sarei, se non si dovesse giocare, per la non assegnazione. Però c'è anche... Anch'io. Chiedo anche agli ascoltatori 800240024 0024, WhatsApp vocali 3492386666. Ovviamente dover consegnare... Un conto dover consegnare all'UEFA e alle altre associazioni internazionali le squadre per poi giocare i tornei europei della prossima stagione, e su quello credo non ci siano dubbi. Però l'assegnazione del titolo, insomma, se non si arriva in fondo, mi sembra francamente, insomma, un po' ridicola, lo dico sinceramente. Sì, detto però questo, c'è anche Pier da definire, insomma, questo è un altro discorso che, come quello per delle coppe, è estremamente attuale. Promozioni e retrocessioni quantomeno. Certo, no, questo sicuramente no, invece però il discorso di Marco di prima, il punto è proprio quello, cioè questa è una crisi mondiale, globale, e non è che i soggetti cambiano, quindi voglio dire, tu puoi anche costringere, adesso ad esempio delle televisioni, ma vale anche per i giocatori, tu puoi anche in punta di diritto magari non rinunciare a nulla, però poi il sistema deve tenere. Allora, se io sono un lavoratore, sono un lavoratore, sono contento se non mi tolgo neanche un euro, però poi mi devo anche porre il problema che la società e il settore, il comparto per il quale lavoro sia sostenibile, altrimenti io non perdo un euro quest'anno, ma poi fra un anno falliamo tutti. Quindi io credo che la soluzione alla fine si dovrà trovare, e poi ripeto, il fatto che la crisi sia globale rende tutto da un certo punto di vista peggiore sicuramente. Però dal punto di vista poi della soluzione, il discorso che facciamo l'altro giorno con Malagò, cioè non è che estremamente democratica del mondo. Quindi bisogna trovare delle soluzioni. Addirittura credo che fra un paese e l'altro ci sarà un, non dico un copia e incolla, però sicuramente quello che succede da una parte potrà influenzare, almeno a livello di moral suasion, quello che succede dalle altre parti. Sì, sì, se non per amore, per forza, se non verranno prese delle decisioni uniformi in tutti, da parte dell'UEFA, faccio per dire, se non avverrà questo, ci si arriverà per altra strada. Tu, Marco, saresti innanzitutto per assegnazione del titolo oppure no? E poi, soprattutto, come si fa a... dirimere la questione promozione e retrocessioni? Andiamo verso un campionato a 22 nel caso in cui non si dovesse ripartire? Io sarei innanzitutto per salvare la prossima stagione, nel senso che farla partire ottobre, novembre, tra l'altro impossibile, c'è tantissima sottovalutazione degli effetti economici sulla prossima stagione. Pensiamo allo sponsor che rinuncia adesso, diciamo sul bilancio di questa stagione rinuncia come dire, a sponsorizzare, quindi sono meno soldi, ma su un terzo. Gli sponsor che taglieranno, e sicuramente tante aziende taglieranno, sulla prossima stagione far vedere meno i ricavi di un anno. Sì. Per non parlare degli stadi chiusi o di stadi aperti, ma con pochissimo pubblico, perché l'effetto psicologico peserà. Aperta e chiusa questa parentesi, io chiaramente, parlandosi di un campionato senza una soluzione diversa, un campionato contempla che si giochino tutte le partite, quindi non assegnerei il titolo. Ho detto più volte che mi apprezzavo l'idea di Gravina dei playoff, che mi sembrava un modo diverso, un modo eccezionale per rispondere a una situazione eccezionale. So che non piace ai presidenti, magari nemmeno a tantissimi tifosi, però era un modo, diciamo, per non avere una pagina bianca nell'almanacco, insomma. E detto questo, chiaramente se non si potesse concludere la stagione meno con i playoff, io appunto congelerei fino all'ultima giornata disputata da tutte le squadre quelle sono le posizioni UEFA, e magari le retrocessioni delle ultime due squadre, le promozioni delle prime due, in modo da salvaguardare un minimo di merito laddove le posizioni sono comunque acquisite. Sì. Ricorso da parte chi retrocede, da parte che retrocede, ricorso in tempo zero, sai. Lo so, però allora a quel punto devi decidere di interrompere questa stagione, cominciare prima la prossima, perché poi c'è l'europeo, e giocare a 22 con tutte le complicazioni di calendario che ci possono essere. Non vedo altre soluzioni, cioè che le squadre si possono materializzare. Se nessuno retrocede, è chiaro che o non fai salire nessuno, giochi a 22, però a quel punto si crea un effetto a catena anche sui campionati che sono dietro, sì, come la Serie C, e devi trovare soluzioni analoghe anche per quelle, però a quel punto, diciamo, rischi di complicare anche la prossima stagione. Io sarei per, come dire, cancellare questa, purtroppo, c'è chi avrà un vantaggio, chi avrà uno svantaggio, ma non è colpa di nessuno, e salvaguardare il più possibile la ripresa, e quindi un campionato omogeneo e regolare l'anno prossimo. Sì. Un ragionamento di estremo buon senso questo, caro Belinazzo, come sempre capita. Grazie Marco, a presto. Grazie ragazzi. A presto. D'altra parte uno scenario che non può che essere così. Ti ricordi l'altro giorno, Pierluigi, poi andiamo con la borsa e poi in Spagna, dove c'è questa notizia del Barcellona. L'altro giorno da noi Gravina ha detto 22 squadre non le vedo proprio. Io non so, chiaramente un sistema 22 non è sostenibile, però non so se si potrà fare altrimenti in caso di mancata ripresa. Non lo so neanch'io, insomma. Io credo che, come diciamo sempre, dipende dal virus come primo elemento, quindi dipende da quando si ricomincerà a poter giocare, sia pure a porte chiuse. Non lo so, a me la soluzione a 22 sembra il male minore, nel senso, sì, ovviamente temporanea, temporanea, sì, solo nella prossima stagione, quindi con più retrocessioni che promozioni, però mi sembra una soluzione di buon senso se non ci saranno le date. A me sembra quasi obbligata, Pier. Sì, insomma, cioè, francamente, povero Benevento, pensare che non venga promosso con 20 punti mi sembrerebbe veramente incredibile e ingiusto. Ma da pensa questo punto di vista, Anfield Road in questo momento, quali sono i pensieri? Più a parte, certo, che l'Inghilterra, anche lì, certo, è venuta fuori questa idea di grande creatività, di un mega concentramento con un milione di partite in 10 giorni. Insomma, un po' sullo stile NBA, anche di questo parliamo dopo. NBA addirittura pensa tutte le squadre in quarantena a Las Vegas. Si finisce la stagione, non ho capito in che modo, ma poi ce lo facciamo spiegare. E poi sempre a Las Vegas, tutte le squadre in quarantena senza pubblico, si giocano i playoff. Incredibile. Ciao a tutti, sono Luca da Modena. È vero il discorso delle TV, delle partite. La mia domanda è: ma noi clienti Sky, per esempio, che pagheremo per intero l'abbonamento a Sport, e adesso ci stanno riproponendo tutti i mondiali che l'Italia ha vinto o perso negli ultimi 80 anni. Noi, per esempio, cioè, alla fine della fiera va sempre in tasca l'ortolano, come si dice. È un discorso che anche noi clienti potremmo fare. Grazie a tutti, salve! Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Tutti d'accordo, tutti contenti che i giocatori della Juve si tagliano gli stipendi, però dopo vorrei che si capisse che tutti faranno in modo che verranno tagliati gli stipendi anche ai normali operai, non so se poi siamo tutti contenti. Salvatore da Mantova, Juventino. Salvatore da Mantova, Juventino. Vabbè, tutti convocati è chiaramente in un'ora strategica, perché arrivano tutte le notizie proprio mentre siamo in onda, come questa. È ufficiale, a quanto si legge, che l'Olimpiade di Tokyo si terrà dal 23 luglio all'8 agosto del 2021. Adesso il CIO dovrà accordarsi con le federazioni internazionali per riprogrammare gli eventi già previsti, ricordate i mondiali di atletica, i mondiali di nuoto, eccetera, eccetera, però verranno riprogrammati nel calendario. Tutto questo costerà al Giappone, visto che stavamo parlando di soldi, 4 miliardi di dollari. Maggior parte delle nuove spese dovranno essere sostenute, indovinate da chi? Dai contribuenti giapponesi. Massimo dalla Spezia, buongiorno. Ciao, ciao a tutti, intanto buongiorno. Complimenti per la trasmissione, ciao, vi ascolto sempre tutti i giorni. Botta di culo anche questa, ci capita di dare notizie in anteprima, lo facciamo con grande piacere. Tra l'altro il discorso che affrontiamo tra poco è di un'oretta fa, con il famoso post di Messi sui social. Dica Massimo. Sì, no, niente, volevo dire che vi stavo sentendo lì sul discorso dei campionati eccetera, ma secondo me il 2020 va proprio cancellato completamente come anno sportivo e bisogna solamente pensare alle persone che stanno morendo e quindi organizzarsi, credo, per quello che sarà il prossimo campionato, anche se la vedo dura, perché capisce bene che dovrebbe ripartire a settembre a questo punto qua. Sì, beh, certamente non sarà, cioè, sarà un anno indimenticabile, ma non in positivo, questo certamente. Su cancellare cancelliamolo tutto, proprio, cancelliamolo dalla nostra memoria, no, a parte i giochi. Sì, quello che dice Beniazzo non è giusto, cioè è fondamentale, voglio dire, da un certo punto di vista è preferibile, anche se chiaramente non è il massimo. Riuscire a mettere un punto alla fine della stagione e poter avere una sorta di normalità dall'anno prossimo, ecco. Questo secondo me è un ragionamento giusto. È anche vero che al momento non ci rendiamo ancora conto dei danni, come dice Beninazzo, certo. Anche Beninazzo Dixit, anche in questo caso della gravità dei danni che la Grandine avrà lasciato sul futuro, però siamo in giorni in cui siamo abituati a ragionare oggi per oggi pomeriggio, più in là non riusciamo ad arrivare purtroppo. Filippo Maria Ricci, buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene. Come va questo audio? Che oggi proviamo nuovi. Ti pensiamo molto, meraviglioso. Ti pensiamo molto, tutti i giorni arrivano notizie dalla Spagna. Sì, io peggio di così Madrid. Non posso stare, no? Con i parenti in Italia, nel nord Italia, no? Mia madre a Modena con la sua bella età, e qua che abbiamo, diciamo, Madrid è un disastro, è un po', se vogliamo, per usare un termine, la Bergamo spagnola. È il posto peggiore in questo momento, con praticamente la metà dei morti, un terzo dei contagiati o un quarto, e così siamo qua, insomma, in casa, aspettando tempi migliori. A proposito, quell'agghiacciante vicenda della salma del presidente Real Madrid, dell'ex presidentissimo, no, alla fine è stata, sì, guarda. Questo c'è una cosa, se vi permettete, vi posso raccontare una cosa che è interessante e diciamo abbastanza indicativa della sofferenza di questi momenti per gli spagnoli. E qua in Spagna, quando muore una persona cara, vengono chiamati tutti gli amici al cimitero e c'è una specie di veglia che può durare una mattina, due giorni, tre, a seconda un po' delle persone, però di solito una giornata, in cui tutti gli amici passano a salutare, diciamo, i parenti, ed è un momento per loro fondamentale, e ovviamente essendo un momento di raccoglimento è stato cancellato. Dopodiché poi il funerale, diciamo, la sepoltura avviene in forma strettissima, super privata, e poi si fa una messa un mese dopo, e di nuovo lì partecipano tutti gli amici. Sì, quindi sono due momenti di grande, è un po' diverso rispetto a quello che succede in Italia, no? E sono due momenti però di grandissima socialità, soprattutto quello del cimitero, è una cosa che qui è importantissima, e non si può fare. E in questo caso adesso, siccome hanno appunto una grande, diciamo, un sovraccarico purtroppo di defunti, di decessi, e praticamente non si sa bene dove finiscano i corpi, e poi a un certo punto vengono presi in consegna, comunque se vengono cremati, e poi ti chiamano e dice: guarda, sì, adesso ti mandiamo le ceneri. Agghiacciante. Cioè, una cosa bruttissima. Dopo i brividi, fammi parlare del signor Messi invece, che non più tardi di un'oretta fa, a proposito della centralità di tutti i convocati, Pardo, guarda come siamo centrati, aspettate. L'ha fatto per noi, non più tardi di un'oretta fa ha pubblicato, non il Barcellona, attenzione, correggimi se sbaglio professor Ricci, non il Barcellona, ma il vero capo del Barcellona, cioè Messi, ha detto. Allora abbiamo deciso questo. Prima c'è stato il comunicato del Barcellona che ha annunciato che i giocatori accettavano, no, il taglio dello stipendio a una cifra superiore del 70%. E questo è stato il comunicato, io pensavo, vabbè, finita lì, più o meno lo sapevamo, era la conferma della notizia di venerdì o sabato scorso, no? Però poi, adesso puoi proseguire, è intervenuto Messi, no? A commentare il comunicato. E l'ha commentato in maniera piuttosto dura, dicendo, accusando il club di voler, diciamo, spargere o comunque di dare in pasto alla prensa amica notizie non proprio edificanti sul comportamento della rosa. E quindi questa ovviamente è l'ulteriore bomba, perché poi questo comunicato è stato comunque poi ripreso da tutti. Un pezzo, Filippo, in che senso poco edificanti? Perché praticamente, diciamo, veniva fuori in questi giorni, effettivamente è venuto fuori, che i giocatori non accettavano la proposta del club di ridursi gli stipendi del 70%. Questo effettivamente era quello che era emerso, perché sai, poi qua, vuoi dire, o tu parli direttamente, in questo momento i giocatori non stanno parlando, non ci sono, anche nei loro canali social erano stati in silenzio, le uniche notizie che arrivavano dal club, e il club faceva un po' passare la linea che la trattativa si allungava perché i giocatori resistevano. Erano egoisti, diciamo. Esatto. Invece Messi risponde. No, Messi risponde, dice, no, non solo noi abbiamo accettato il 70%, ma poi ci facciamo anche carico degli stipendi, perché allora, qua si parla ormai, è entrato anche nel linguaggio italiano, l'ERTE, no? Prendete la cassa integrazione, per farla facile. L'ERTE va in due direzioni. Una, sospensione temporanea dal lavoro, e questo riguarda tutti quelli che lavorano nei negozi del Barça, il museo del Barça e tutti quelli che in questo momento non possono lavorare. Quelli vengono sospesi, ok? E non guadagnano. E dopodiché agli altri, invece, per esempio i giocatori della polisportiva, quindi inclusi i calciatori, gli si riduce lo stipendio appunto di una cifra pari, in questo caso qualcosa anche di più del 70%. Messi fa sapere che saranno loro a farsi carico degli stipendi degli impiegati finché non saranno di nuovo riassunti. Quindi alla fine un buon gesto. Quindi ne esce, diciamo, da leader di Schierda Unita, praticamente, no? Esatto. E fa fare l'ennesima brutta figura al club, no? E questo, certo. Attenzione, è una cosa, uno dei primi commenti che arriva al post di Messi è di Xavi. E non so, io oggi ho hai scritto di che Xavi vuole tornare, tornerò. Però parla di ambiente tossico. Addirittura. No? Ha detto due volte, usa il termine tossico, e dice, io intorno al mio spogliatoio non voglio niente di tossico, e lancia un missile a Erika Vidal, che è l'attuale direttore sportivo, che aveva parlato male di lui dopo che erano andati a fare la trattativa, che era finita male, e oggi quando Messi fa questa cosa, diciamo, di nuovo, facendo sapere che non è contento del comportamento del club, il primo a farsi vivo è Xavi, o uno dei primi, insomma, comunque il primo significativamente. Per cui mi sembra che il clima sia non pessimo, molto di più. No, perché qui si litiga, Pierluigi, qui si litiga, però non è che all'estero si mandino esattamente i fiori a casa. No, beh, poi comunque il Barcellona, lo sappiamo, sta diventando una saga quella del Barça, quindi è assolutamente in linea con le puntate precedenti. Rimane, secondo me, di questa vicenda qui più in generale, un aspetto, cioè la sensibilità e la rilevanza mediatica e in termini proprio di immagine che questa vicenda ha. E quindi torniamo al discorso che facevamo prima, certo, che riguarda la Juve, certo, che riguarda tutti gli altri. Cioè, comunque Messi ci tiene, giustamente, anche poi, voglio dire, se rinuncia al 70% dello stipendio, insomma, almeno il privilegio di fare una buona figura, è giusto anche che sì, uno se lo prenda. Chiariamo, 70% delle ultime mensilità, cioè quelle che restano. No, al momento una mensilità, perché oggi 70% di una mensilità, perché, ok, cioè, quindi prendono il 30%. Però diciamo fa precedente che se non si riparte in tre mesi, non si vale per tre mesi. Esatto, giusto? No, questo continua. Diciamo, prende il 30% del suo stipendio dal 14 marzo, che è il giorno in cui è stato proclamato lo stato d'emergenza. Stato d'emergenza che al momento dura fino all'11 aprile, ma sicuramente sarà esteso, insomma, comunque. Al momento, quindi, siamo a quasi una mensilità, perché no, dal 14 marzo all'11 aprile. Però, finché non diciamo, si torna, se tutto va bene, sono due mesi, dai. Esatto. Se tutto va bene. Oltre a questa rinuncia, diciamo, si sono occupati loro di pagare gli stipendi. Sono tante. Senti, dimmi una cosa, poi salutiamo Pierluigi Pardo, ma io ho delle altre cose da chiederti, ho anche un ascoltatore in linea. L'altro giorno, magari ho letto male, ma mi è sembrato di capire che il Barcellona aveva già provveduto a tagliare degli stipendi, no? No, no, è questo, è lo stesso provvedimento, sì. E appunto oggi è stato ufficializzato dal Barça e solo dopo l'ufficializzazione è intervenuto Messi. Praticamente l'altro giorno, quando è stato prima il Barça ad annunciarlo, poi ha fatto l'Espagnol e l'Atletico Madrid, no? E il Barça aveva detto, però non aveva parlato di cifre. Mentre okay. L'Espagnol aveva detto che era il 70%. Avevano detto, noi lo comunichiamo. In tutto questo, per Real, che fa? Cosa, però. Real che fa? Il Real sta fermo. Il Real per il momento non fa niente, va avanti come se nulla fosse al momento. Poi qua le cose sono da vedere. Una cosa solo che va puntualizzata: l'ERTE, cioè la cassa integrazione, deve essere approvata dagli organi competenti. E non è detto, io ho parlato con diversi avvocati la scorsa settimana, non è detto che questi ERTE del calcio vengano poi effettivamente accettati, perché comunque stiamo parlando di una squadra che fa 1 miliardo di incassi, per cui potrebbero anche avere da ridire, però vediamo come va a finire. Comunque intanto questo è solo, diciamo, ancora non è finito il discorso. I calciatori hanno garantito gli stipendi dei Se l'ERTE viene approvato, loro scendono dal 100 al 30% e tutti quelli che restano a casa riceveranno lo stipendio grazie a un fondo creato dai giocatori. Certo. Perfetto, grazie Pierluigi. Intanto saluto te. Tu resta Filippo Maria Ricci, c'è Simone Sandri da New York, così incrociamo all over the world varie considerazioni. C'è Sergio che invece chiama la provincia di Grosseto, quindi Italia. Traffico, torniamo. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti Convocati. Tutti Convocati. Sergio, buongiorno, mi dica. Sì, buonasera. Complimenti per la trasmissione. Grazie. E per la competenza, soprattutto anche a Pardo. Grazie. Allora, riguardo al campionato di Serie A, devo dire complimenti alla Juventus che ha dato questa magnifica prova, quindi prima di criticare bisogna apprezzare la managerialità e la capacità di questa squadra come quelli del Barcellona. Riguardo invece al campionato di Serie A, devo dire che qualora non ci fosse lo spazio per effettuare tutte queste partite, i play-off e play-out sarebbe l'unica soluzione possibile. E riguardo alla quantità di squadre, io sono anni che sostengo che 16 squadre sarebbe l'ottimale, anche perché bisogna dare spazio alla nazionale. E se questo fosse stato realizzato prima, tutto questo problema forse sarebbe risolto in maniera più semplice. Ma non è stato realizzato prima, e ho l'impressione che l'anno prossimo ci terremo un sacco di squadre in Serie A, overbook in totale. E quanto invece playoff, playout, io sono curioso di incrociare le sensazioni di Simone Sandri da New York per gli sport americani e di Filippo Maria Ricci per la Spagna. Ciao Simone, innanzitutto, salutato. Buon pomeriggio, Carlo. Allora, prima ho dipinto agli ascoltatori questo scenario pazzesco che l'NBA si potrebbe varare, cioè una sorta di gigantesco grande fratello a Las Vegas, tutte le squadre lì in quarantena, no? A giocare tutte quante la fine della stagione, non ho capito bene come lì. Sì, è uno dei worst case scenario a cui stanno lavorando alla Olympic Tower a Manhattan. Adam Silver vuole a tutti i costi finire la stagione, perché non finire la stagione porterebbe dei grossi problemi anche per la stagione successiva, a costo di arrivare a fare le finali a settembre. Adam Silver, ovviamente nei limiti del possibile, vuole provare a finire la stagione. Adesso è venuta questa idea, che potrebbe essere quella che un po' cambi la direzione della stagione, potrebbe essere quella di trovare un posto dove tutti i giocatori potrebbero essere riuniti. Si pensa tipo a uno dei grandi hotel di Las Vegas, oppure alle Bahamas, a creare una zona, possiamo definirla coronavirus free, alle Bahamas, creare un campo da basket apposta e giocare tutte le partite con tutti i giocatori riuniti nella stessa zona, testati costantemente, con l'idea che non uscendo, non viaggiando, il contagio sarebbe molto più difficile. È un progetto molto complesso, al del quale ovviamente il sindacato dovrà dare la propria opinione e sentendo le prime voci, per esempio, di LeBron James, non sembra molto incline ad approvarlo in questo momento. Vediamo come vanno le cose, come si sviluppano le cose nelle prossime settimane e poi capiremo. Comunque è uno dei piani a cui sta lavorando l'NBA, che sembra uno che sembra forse la cosa migliore per poter almeno anestetizzare, se vogliamo, il virus in un certo modo. Sì, ma sarebbe una cosa davvero pazzesca, no? Una sorta di virtual game per chiudere ad ogni costo la stagione. Oltre a chiedere a Filippo Maria Ricci cosa ne pensa, gli domando anche invece in Spagna quale sentimento c'è in questo momento rispetto alla chiusura della stagione. Ma, beh, insomma, la prima ipotesi è affascinante, molto strana, però appunto siamo in una situazione di tale emergenza che tutto va bene, secondo me. Se si vuole finire, le soluzioni non sono tante, questa potrebbe essere una. E per quanto riguarda qui, ecco, ci si può riallacciare allo stesso discorso. Io ho parlato con Tebas 10 giorni fa, presidente della Liga, e lui mi diceva: no, noi basta che ripartiamo il 14, anche il 18 maggio, e finiamo tutto entro il 30 giugno, e si riferiva anche al campionato italiano, che ha 3 giornate in più da giocare rispetto alla Spagna, perché lui è in questa piccola, no, task force che sta, teoricamente si deve occupare dei calendari di tutta Europa, 30 campionati più Champions League, Europa League e le varie coppe, e lui sosteneva che, ecco, tra il 18 maggio e il 30 giugno lui faceva tutto. Allora, a me sembra ovviamente molto molto complicato. Io l'ho anche detto, dico, beh, insomma, vediamo come farete, perché poi bisogna anche teoricamente poi dare dei giorni prima ai giocatori per allenarsi. E ecco, questo happening disegnato alle Bahamas o dovunque sia, Las Vegas, Bahamas, esatto, no, va bene, togli la possibilità, diciamo la necessità di viaggiare, accorci i tempi, togli il pubblico dalle partite, sì, quello ovviamente peccato, quello fisico, esatto, giocare senza pubblico io lo trovo veramente penalizzante. Beh, in America ancora di più, cioè in America credo che sia ancora più sentito, no Simone, il tema, non vogliono sapere. Ad esempio LeBron James, ne abbiamo già parlato, ha detto col pubblico, senza pubblico non se ne parla neanche. Beh, a quel punto si va direttamente alla prossima stagione. Assolutamente, ci sono due ovviamente scuole di pensiero: quella pragmatica, che dice che al 100% se la stagione torna si gioca senza pubblico, non ci sono possibilità di giocare a porte aperte, e quella invece romantica, tipo di LeBron James, che dice: noi giochiamo per il pubblico, per cui vogliamo avere la presenza del pubblico, se no allora non giochiamo. Credo che è lo stesso LeBron James, messo di fronte alla scelta di finire una stagione nella quale potrebbe anche vincere un titolo e quella di non concludere, probabilmente anche lui opterebbe per giocare col pubblico. Voglio anche sottolineare di come la tecnologia sta venendo un po' in soccorso, anche se vogliamo, alle leghe sportive, perché la FDA ieri ha approvato questa macchina che sarebbe in grado di fare un test in circa 15 minuti, di dare una positività in circa 15 minuti. Questo sarebbe, nella NBA lo considero un game changer, perché se veramente questa cosa fosse diffusa e fosse approvata e si proverebbe il fatto che i test sono effettivamente conclusivi, potrebbe cambiare il principio, perché potrebbe far sì che la gente, tutti i presenti a una partita comunque a porte chiuse, potrebbero essere testati prima, non so, un'ora prima della partita, e si potrebbe sapere con certezza che non c'è nessuna positività in tutto il contesto di una partita comunque a porte chiuse, per cui quello potrebbe cambiare veramente anche la direzione delle decisioni dell'NBA. Cioè, si tratterebbe di sigillare tutti i partecipanti, Filippo. Certamente. Sì, è un po'... sono fantascienza, da dire, creatività. Da commentare, sì. Però si va verso una scena... Cioè, noi come potevamo pensare, no? Adesso io personalmente sono 3 settimane che sono in casa, insomma. Non lo potevo pensare un mese fa, 2 mesi fa, no? E quindi le cose... questa è la realtà che stiamo vivendo, per cui anche questa, che può sembrare fantascienza, teoricamente, insomma, ecco, può essere una soluzione. Se alla fine io spero che si ritorni a giocare prima o poi, se per farlo. Ma quanto agli altri sport in Spagna, Filippo, come qual è la posizione? No, qua conta che poi no, tutto fermo, e conta che il... No, vabbè, che sia tutto fermo certamente, ma c'è qualcuno che ha già chiuso la stagione ufficialmente? No, no, c'è il basket è forse è il, diciamo, quello più convinto in questa direzione, però poi bisogna anche ricordare che il Comitato Olimpico qui è stato tra i primi e comunque tra i più, diciamo, forti promotori del rinvio delle Olimpiadi. Loro sono stati i primi subito a schierarsi dicendo che basta, che quest'anno non si poteva fare, per cui, ecco, negli altri sport si va in quella direzione. La pallacanestro si è fermata e sì, mi sembra che sia lo sport più convinto nel chiudere, diciamo così, la stagione con un'assegnazione del titolo mi auguro. Non c'è ancora niente ufficiale, vediamo, però del resto il primo positivo a livello sportivo qui è stato Trey Tompkins del Real Madrid nella pallacanestro dopo il viaggio a Milano, per cui questo è così. Un'ultima cosa per Simone Sandri, poi saluto tutti. Vi ricordo l'ufficialità della decisione dello spostamento delle Olimpiadi. Si disputeranno le Olimpiadi a partire dal 23 di luglio del 2021 con chiusura l'8 di agosto, quindi spostamento di un anno secco. Simone, invece, si parla del problema di salari, stipendi negli Stati Uniti per quanto riguarda gli sportivi? Sì, si parla in diversi strati, una discussione che si fa in diversi strati. Primo, i giocatori NBA è un po' complicato per loro tagliarsi lo stipendio, come ho sentito in Spagna o in Italia, proprio per il discorso della salary cap. Ci sono delle situazioni molto complesse di salary cap. Secondo, molti giocatori hanno deciso di donare parte del loro stipendio per far sì che, non solo alla ricerca, ma anche per far sì che gli impiegati delle arene, gli impiegati delle squadre che non sono pagati, venissero pagati. E terzo, c'è un discorso di pura economia che dice che la salary cap della prossima stagione dipenderà dagli introiti di questa stagione, quindi si prevede un taglio drastico della salary cap della prossima stagione. Anche dal fatto che all'inizio della stagione la NBA ha perso diversi soldi per il discorso con la Cina, con Hong Kong, adesso questa è una tragedia sportiva per quanto riguarda la NBA, naturalmente, il che significherà decisioni di general manager, di firma di free agent, magari non possibili, perché la salary cap potrebbe scendere da 115 milioni a 100 milioni ed è un problema non da niente. A proposito dello scenario futuro cui oggi pensiamo sì, ma ancora relativamente. Grazie davvero Simone Sandri, a Filippo Maria Ricci da Stati Uniti, Spagna, Giorgio De Luca, Claudia Schiattone, Roberta Frisani invece qui a Milano in redazione in regia. Ci sentiamo domani tutti convocati alle 2. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.